Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24, un imprenditore che da mezzo secolo ci tiene compagnia, imprenditore e finanziere di nome italiano, europeo e internazionale, Carlo De Benedetti, si tiene la sua funzione di editore di Repubblica e dell'Espresso, il grande gruppo che tutti conoscete, ma molla le funzioni operative al vertice delle società che ha fondato e dice: mollo per la semplice ragione che ho 75 anni. Sconcerto, scandalo. Che ne pensate voi? Bisogna mollare a 75 anni? Oggi a 75 anni sapete benissimo che cosa tende a fare un componente illustre della classe dirigente: jogging, diete, party e duro lavoro, pensando di avere davanti a sé l'eternità. L'idea del limite è un'idea del tutto estranea generalmente a coloro che hanno una funzione al comando, diciamo, delle leve del potere sociale, economico, finanziario e politico. Invece è successo due giorni fa, Carlo De Benedetti ha detto 75 anni, l'anagrafe, insomma, è una cosa seria. Sentiamolo direttamente dalle sue parole. Ho compiuto il mio 50° anno di lavoro e alla fine di quest'anno compierò 75 anni. Ho deciso pertanto di lasciare tutte le presidenze delle società del gruppo che ho fondato. È una decisione serena perché mi sono assicurato il ricambio del management là dove occorreva e la continuità dove esisteva. Ovviamente ho fatto degli errori, tanti. Ho avuto eventi che hanno penalizzato la mia carriera per ragioni politiche. La condanna per il Banco Ambrosiano, che poi la Cassazione ha deciso che non esisteva la ragione per processarmi, non è che ci fosse stato un errore, l'errore era nel processarmi, e che comunque mi è costata, come a ognuno può immaginare, un addoloramento profondo. La SME, che tutti sanno che mi è stata tolta per ragioni politiche da un contratto firmato, e la terza ragione in cui sono stato bloccato per ragioni politiche nella mia carriera imprenditoriale è la Mondadori. Una considerazione che uno a un certo punto della propria vita deve avere il coraggio e la forza di fare, constatare che esiste l'anagrafe. Ecco, devo dire che fa simpatia De Benedetti in conferenza stampa che molla. Perché? Perché mette insieme tutto con una certa sincerità. La voce è ancora piena di fibra, ma naturalmente è stanca, non è la voce di quando si hanno 35, 40, 45 anni, e sfogliando un po' i capitoli della sua vita con quel foglio che gira, in conferenza stampa De Benedetti ha ricordato i momenti più drammatici, più traumatici, i grandi conflitti. Gli imprenditori non sono tutti uomini perfettamente intonati al marketing, ci sono anche, come Berlusconi, come De Benedetti, due arcinemici, ci sono anche gli imprenditori che si compromettono con le faccende della società, con i conflitti di potere politici, lasciano che tutto questo emerga in modo trasparente, non lo fanno agire sotto pelle, in modo sotterraneo, e insomma le loro storie quindi sono interessanti da discutere nel momento in cui affrontano passaggi esistenziali così importanti come quello di mollare. C'è di mezzo anche un figlio, è molto interessante il rapporto tra un padre e un figlio, perché è il figlio Rodolfo che eredita, diciamo, nella catena di comando i poteri che De Benedetti adesso lascia, e c'è tutta una storia del nostro paese, delle nostre classi dirigenti da esaminare e da raccontare. 800 24 00 24, voi lascereste a 75 anni il potere che avete? È la domanda di oggi. Dovrebbe essere con noi Oscar Giannino, che è un cronista nel senso più alto della parola di fatti finanziari, anche direttore di Libero Mercato, il supplemento quotidiano quotidiano economico-finanziario di Libero, e che conosce dall'interno, perché anche lui ha partecipato ai grandi conflitti, diciamo, tra politica, finanza, economia, come commentatore, come attore anche per certi periodi, nello stesso mondo di riferimento di Carlo De Benedetti, quello repubblicano, eccetera, eccetera. Giannino, in borsa l'Espresso va benissimo da un paio di giorni, contraddicendo una tendenza negativa. Se uno lascia 75 anni dà un segnale di speranza e di ottimismo, oppure è vero che il fatto che si tiene l'Espresso De Benedetti ha rincuorato gli investitori? Come sta andando la cosa? Un giudizio tecnico. La borsa è come sempre cinica, perché quando ci sono situazioni diciamo cristallizzate, i titoli vanno giù, nel senso che non ci si aspetta novità, e soprattutto non ci si aspetta novità in un settore che è uno di quelli più penalizzati da un anno a questa parte. Gli editoriali in un anno hanno perso in media l'80% del loro valore. Perché? Perché la pubblicità si contrae, perché i costi sono pesanti, è un settore anelastico all'andamento del mercato. Invece quando la novità arriva e significa che il figlio di Carlo De Benedetti, cioè Rodolfo, avrà comunque molta più mano libera per razionalizzare l'Espresso, Repubblica, i quotidiani finegili, eccetera, il titolo reagisce bene, perché dice bene, allora la redditività del titolo può guadagnare, e quindi, signori, finalmente la situazione non è più uguale a prima. Ecco, Carlo De Benedetti, sia giusto sia sbagliato, veniva oramai considerato da chi detiene un titolo l'Espresso come una specie di garante di immobilità, e del resto Carlo De Benedetti aveva detto più volte che aveva un'opinione diversa rispetto al figlio, e questo credo che sia uno, oltretutto, degli elementi pressoché fondamentali della scelta che ha compiuto e che ha annunciato a sorpresa. Sì, bisogna dire che il figlio Rodolfo non ha neanche 50 anni, è un quarantenne, è molto stimato, è un gran lavoratore, un uomo abbastanza scabro, al contrario del padre ha un carattere tranquillo, un carattere defilato, non ha mai partecipato in primo piano, insomma, facendosi portavoce degli interessi dell'azienda o del ricasco politico degli interessi dell'azienda, ai conflitti con le istituzioni, quindi è ovviamente una figura rassicurante. Però Giannino De Benedetti ha detto: io mi tengo il potere di nominare i direttori di Repubblica e dell'Espresso, e non è un potere da niente in un gruppo editoriale. È un potere che dal punto di vista della storia di quel gruppo, dell'influenza, dell'impatto che ha nella politica, nel complesso della vita italiana, non solo nella politica, è un potere fondamentale. Però naturalmente il mercato finanziario guarda agli utili, alla redditività, eccetera, quindi quei direttori indicati da Carlo De Benedetti come prima, e indicherà anche il presidente dell'Espresso, ma comunque dovranno fare come linee economiche di ristrutturazione del gruppo ciò che deciderà Rodolfo d'ora in poi, e con i mezzi messi a disposizione o ridimensionati da parte del figlio, e questo è quello che conta dal punto di vista della redditività. La spiegazione tecnica è, direi, perfetta e assolutamente rassicurante da un certo punto di vista. Giampaolo Panza è la grande firma del gruppo Espresso Repubblica, così è conosciuto. Oggi è un collaboratore editorialista del piccolo quotidiano combattivo Il Riformista, se n'è andato da quel gruppo da un po' di tempo e quindi può parlare di Carlo De Benedetti, che è stato per 16 anni il suo editore, può parlare di questa storia di un impero mollato a 75 anni in favore del figlio, di una abdicazione, diciamo così, con maggiore libertà di quanto ne avrebbe potuto parlare un po' di tempo fa. Panza, lei crede in questo ritiro a vita privata? Formula molto arcaica di cui non si parla. Prima di tutto voglio correggere un aggettivo che poi ci diamo del tu, naturalmente, con Giuliano Ferrari. Io do sempre del lei ai miei ospiti in televisione, alla radio. Allora te lo darò anch'io, via del voi. Il fatto che Rodolfo sia un ragazzo tranquillo, non è per niente così. Rodolfo ha un carattere d'acciaio, ha un carattere, anche a Milano direbbero, da brumista, cioè che i brum venivano guidati appunto da signori che dovevano scansare le altre carrozze, quindi ha un carattere duro come tutti i grandi manager, che in questo caso è un manager proprietario, è un signore che ha delle idee molto chiare su come sviluppare e difendere il proprio impero, A proposito della carta stampata, la pensa esattamente come ha descritto un istante fa Oscar Giannino, e quindi quello che si dice, i boatos, è che questa decisione dell'ingegnere sia stata presa dopo un ultimissimo braccio di ferro molto delicato e molto aspro in famiglia. Addirittura si parla di una riunione domenicale praticamente 24 ore prima della sua conferenza stampa, che questo spiegherebbe anche questo annuncio improvviso. E quindi i giornali, io me ne sono andato via in ottobre dell'anno scorso, mi sono sempre trovato bene con il generale De Benedetti, ho avuto tanti editori, tanti padroni, come si diceva una volta, e quello forse è stato il padrone più libero, salvo naturalmente quello che mi dà da lavorare oggi. Che poi, Il padrone del momento è sempre il migliore, questo certo, sempre il migliore, grazie a Dio. Poi il riformista, anche un direttore che lei conosce bene, Antonio, certo. Polito, molto, molto gentleman, molto liberale, ansioso di fare un bel giornale. E però adesso chi è rimasto in questo gruppo, tanto per cominciare, un mare immenso di giornalisti, perché si dice che solo la testata di Repubblica abbia quasi 500 articoli uno, cioè giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato. Poi ci sono quelli dell'Espresso, poi ci sono tutti i giornali locali, e quindi poi dopo faremo l'analisi anche di quello che De Benedetti lascia. È una macchina gigante, sì. Ma io quindi non credo che De Benedetti abbia lasciato per ragione di età. È vero che questa, la tua, questa di oggi, può sembrare avere per titolo "questa non è una trasmissione per vecchi", ma, ma io però ho un anno di meno dell'ingegnere, e non penso che lui l'avevo anche incontrato quindi di recente. Lei chiede ancora un anno di dilazione, diciamo. Però sai, qui ci sono tre persone a livelli molto diversi che sono nati tutti uno dopo l'altro. Cioè De Benedetti, nato nel 34, il sottoscritto, non conto un tubo, nato nel 35, e Silvio Berlusconi nel 36. Quindi io non credo affatto che la guida di un gruppo come quello possa essere stata lasciata per la barriera dei 75 anni, ma questo io l'ho anche scritto subito ieri. No, bisogna dire che De Benedetti ha riconosciuto che c'era un contrasto con il figlio. Ma sì, ma infatti, però il limite del 75 lo metteremo anche nelle nostre aziende per chi ha post guida, perché ha delle responsabilità di guida, ma insomma, senza ricorrere al jogging, senza andarsi a fare massaggiare da specialisti anti-invecchiamento, senza usare diete speciali, guidare gruppi, come scrivere per i giornali, ma anche guidare i giornali. Io sono stato La Chiesa ha stabilito che l'attività apostolica, diciamo, operativa a 75 anni deve cessare. Ma cioè, non lo so, la Chiesa è una... Però il Papa no, il Papa... Allora, io però... il primo direttore che ho avuto, cioè Giulio De Benedetti, che non era parente di questo ramo... Fino a che età è rimasto? Ma lui, quando mi ha assunto, aveva 90 anni, e se n'è andato via nel 68 quando ne aveva 78. E per andarlo via... Come, da 90 anni a 78? No, mi sembra impossibile. Da 90 anni a 78 non si può scendere. No, ma un momento, io ho detto nato nel 1890, mi assunto nel 60, aveva 70 anni, e poi è rimasto in sella fino al 68, quando è stato sostituito da Alberto Ronchey, e quindi quando è andato via e non aveva nessuna intenzione di andarsene, GDB o Ciuffettino, aveva 78 anni, 78 anni, guidava il giornale con la stessa energia di prima. Poi è chiaro, insomma, diffidenza di panza verso la causale dell'età per la andata via la mezza andata via di Carlo De Benedetti. Sentiamo Filippo da Pistoia. Filippo, buongiorno. Senta, volevo dire quanti anni ha lei? 38. Ecco, e a 75 se ne andrà? Senti, io ho avuto a che fare diverse volte con grandi dirigenti, manager, però vedo che hanno difficoltà all'età, soprattutto dei Di Benedetti, a usare le tecnologie. Sono bravissimi con i rapporti in tante cose, però non sanno navigare con sveltezza, con scioltezza, questo sarebbe... Ma diciamo così, ma più che altro con tutta la tecnologia. Sì, vabbè, non sanno utilizzare i dati, non sanno fare un uso ricco del computer, questo lei sta dicendo, no? Sì, però questa cosa qui serve a livello economico per l'Italia. Sì, e quindi secondo lei fanno bene a farsi in parte, diciamo, a ritirarsi a vita privata, è questo quello che lei dice? Sì, sì, i rapporti interpersonali sono bravissimi, si sente anche nel pubblico, però privatamente c'è bisogno di un intermediario, di qualcosa che possa fare da intermedio. Bene, i vecchi manager sanno come fare per le risorse umane, come si chiamano nelle aziende, ma per quello che riguarda le tecnologie hanno dei difetti e quindi è bene che lasciano spazio ai più giovani. Roberto da Reggio Emilia. Sì, buongiorno dottor Ferrara, buongiorno, e i suoi ospiti. Il Benedetti voleva magari sollevare questo tipo di dibattito. Certo è che la questione c'è, cioè se l'età di uscita dal lavoro avanza, al di là della posizione che le persone ricoprono in un'azienda, nasce inevitabilmente anche il problema dell'età d'ingresso, cioè del prolungarsi dell'età d'ingresso al lavoro, perché ovviamente, ahimè, soprattutto di questi tempi, non c'è posto per tutti. Allora, spesso un'uscita anticipata al lavoro viene considerata un costo per il sistema pensionistico, però io credo che sia un grosso costo anche far sì che persone di 30-35 anni rischino di non entrare, di non essere produttivi in anni comunque di massimo vigore, perché appunto persone di 75-80 anni fanno difficoltà a lasciare il posto di lavoro. Questa è la mia opinione. Insomma, funzionano un po' come una cappa. Sentiamo Natalia Aspesi, che è una grande firma di Repubblica tuttora e che pare non abbia nessuna intenzione di mollare, sia anzi un po' scandalizzata da questa idea che a 75 anni uno se ne deve andare. No, io non ho intenzione di mollare, ma immagino che saranno gli altri a graziosamente eliminarmi. Chi lo sa, non è detto. Non è detto, ma è probabile. Lei li tiene un po' per la gola, perché insomma lei istruisce su amore e sesso i lettori del venerdì, racconta il mondo del cinema, della moda e dei grandi messaggi. Vabbè, diciamo, tra l'arte. Diciamo che tanti altri lo possono fare. Poi sai, i tempi cambiano, i giornalisti, a parte anagraficamente, diventano vecchi in altri modi, insomma, non solo anagrafici. Sì, si invecchia anche culturalmente. Lei l'ha ascoltata, si invecchia anche culturalmente, non solo anagraficamente. E certo, appunto, si diventa terrorizzati dai cambiamenti, si resta attaccati a delle cose che non hanno più senso, o ne avrebbero, ma i tempi cambiano, quindi bisogna adattarsi. Non lo dica a me che vedo l'apocalisse dietro ogni angolo, potrei essere suo nonno, signora Aspesi, dal punto di vista del mio pessimismo. Invece che lei potrebbe essere mio figlio, una cosa mi terrorizza. Siamo tutti e due terrorizzati da un eventuale parentela. Uno dall'altro. Dunque, no, volevo dire un'altra cosa. Lei l'ha sentita un po' la conferenza stampa? Purtroppo no, la radio. Ah no, lei dice la conferenza stampa dell'ingegnere? Sì, sì. Beh, ho letto. Ha letto, insomma. Ha un... Sì, sì, l'ho letta ieri. Come le sembra? Adesso dico, non è che le chiedo di giudicare il suo editore, no, naturalmente, certamente. Perché pur sempre l'editore sarebbe una cosa... Dico, come storia italiana, questo fatto che adesso Panza ha detto probabilmente domenica si sono visti a pranzo, c'è il rapporto di un padre con il figlio, di differenze strategiche, e poi dopo una vita piena di conflitti, di cose, una persona con la moglie, con tutta la famiglia, si presenta lì in una sala della borsa Valori, a borsa chiusa naturalmente, e dice delle cose con un tono malinconico, ma fiero, orgoglioso, dice, beh, insomma, l'anagrafe esiste, francamente, ve lo devo dire, è un problema forse anche per gli statuti delle mie società, 75 anni sono 75 anni, e poi, insomma, ho delle ammaccature, perché ha anche raccontato la SME, la Mondadori... E allora dice, beh, io il ritiro a vita privata, diciamo, adesso non un giudizio su Carlo De Benedetti, il suo editore, certo. Ma questa vecchia cosa che è riemersa improvvisamente, alla quale nessuno pensava più. Ma io, guardi, penso che una persona come l'ingegnere che è dovizioso e pieno di interessi al di là del lavoro, e soprattutto avvicina una donna molto intelligente, molto bella, molto intraprendente, potrebbe avere una vita privata di una complessità, intensità e piacere grandissimo. Io però non riesco a credere che l'ingegnere non si occuperà più di finanza o dei giornali o delle cose a cui ha dedicato tutta la vita. Per cioè, esempio, non riesco a vederlo. Certo. Ecco. Per esempio Panza, signora Aspesi, che è qui con noi in linea e quindi col quale si può anche parlare, ha detto in un articolo, diciamo, commentando questo congedo, sì, questo ritiro a vita privata dell'ingegnere De Benedetti, ha detto: gli auguro di non annoiarsi. Io comunque continuo a scrivere, vero Panza? Non sì, come no. Certo. Ecco, ma perché nella vita privata uno si dovrebbe annoiare? Io penso che se uno si ritira a vita privata è lì che comincia veramente a divertirsi. Certo, il lavoro è fonte di gratificazione, di soddisfazione, è un elemento che ti dà la sensazione di stare con i piedi per terra, ti scandisce il ritmo della giornata, ma la vita privata è un'avventura magnifica. Si possono... Secondo me il ritiro a vita privata è una cosa bella se durante il resto della vita, nel passato, si sono costruiti interessi diversi, perché la gente che va in pensione, non dico ai livelli dell'ingegnere che poi non è una pensione, ma a livelli diciamo più normali, una volta in pensione si dispera. Le donne no, perché le donne hanno comunque attività, diciamo, di tipo casalingo, per cui hanno sempre qualcosa da fare. Ma se uno non si costruisce prima un piacere, che può essere l'orto, piuttosto che l'università della terza età, piuttosto che qualsiasi cosa, si alza la mattina e ha davanti che cosa? La sensazione del vuoto, sì. Perché non basta avere danaro. Il tempo che non si riesce. Col danaro puoi fare, il denaro ti permette anche di fare cose di cui non te ne importa nulla. A me, se mi facessero fare il giro del mondo, sarei disperata. Non Beh, una noia bestiale il giro del mondo. Sì, io penso che sarebbe una noia bestiale il appunto, giro del mondo. Appunto, vede, capisci? Quindi, non lo so, io non so se l'ingegnere non farà più nulla e mi auguro che vada avanti invece a occuparsi. Va bene, grazie signora Aspesi. Una mail da Laura Torriani sul caso De Benedetti, che ha lasciato a 75 anni una parte ingente, diciamo, del suo potere sulle aziende che ha fondato. Tanto di cappello, ha fatto bene, magari lo facessero in tanti. Mio padre è morto alla sua scrivania a 77 anni e la mia più grande tristezza è che non ha potuto vedere l'Australia come aveva programmato per quando avesse smesso di lavorare. Mancavano 2 mesi. È chiaro che De Benedetti ha fatto quello che voleva anche prima, ma a una certa età è meglio lasciare ad altri e badare a se stessi. Saluti, Laura Torriani. Veniamo al significato di un semi-abbandono come questo dal punto di vista politico. Giannino, De Benedetti è stato uomo di grandi conflitti. Negli anni 70 si è detto voleva prendersi la Fiat, di cui era diventato amministratore delegato, e in 100 giorni, impresa un po' napoleonica, entrò e uscì dal colosso degli Agnelli, sfidò la dinastia reale dell'imprenditoria italiana. Negli anni 80 sfidò Craxi, l'uomo il cui potere politico fu anche una sorta di grande stimolo, ricordiamo la borsa rampante, gli anni del liberismo che si affermava in Italia, il socialismo liberale di Craxi, l'idea che i partiti dovessero varare le privatizzazioni, le libertà economiche, eccetera, sia pure a certe condizioni. Lui era dall'altra parte, De Benedetti, e ci furono grandi scontri in Europa, cercò di prendersi la chiusa cassaforte delle grandi famiglie finanziarie europee, la Société Générale de Belgique, e non ci riuscì. Agnelli lo titillò un po', disse: bisogna saper contare fino a 51 se si vuole dare la scalata a una società finanziaria. E poi c'è stata la storia della SME, poi c'è stata la storia della Mondadori. Insomma, che significa questa mezza uscita di scena di De Benedetti dal punto di vista dei grandi conflitti politici tra quella che Cossiga chiamava la nota lobby e il resto del potere politico-economico? Un nome per tutti, Silvio Berlusconi. Ma comunque la si voglia mettere, è la fine di un capitolo molto lungo, e la fine di questo capitolo vede l'ingegnere De Benedetti, fiero titolare di questa visione che lei ha appena sintetizzato, in realtà sconfitto, io adesso uso un aggettivo sintetico e un po' eccessivo, ma insomma per intenderci. Dall'altra parte vede Silvio Berlusconi, che lei ha appena richiamato, saldamente in sella dal punto di vista insomma sia dei suoi gruppi e sia dalla politica. E questo è secondo me il significato che Carlo Benedetti ha voluto richiamare, sia pure a suo modo ovviamente, quando ha detto la politica in realtà mi ha penalizzato nelle mie iniziative di industriale e finanziere. Questo è il punto di vista di Carlo De Benedetti, richiamando proprio alcuni di questi scontri topici, cioè quello sulla SME, che lo vide contrapposto a Craxi e a Berlusconi, che l'ingegner De Benedetti trascinò nei tribunali, non ottenendone vittoria nei tribunali né ottenendone vittoria nella sostanza, perché la SME fu poi venduta ad altri molti anni dopo a un prezzo molto superiore. Sì, a quello, dobbiamo naturalmente ricordare che per quello che riguarda la battaglia nei tribunali poi fioccarono le accuse di corruzione in atti di giustizia, ci sono state le sentenze, insomma, esattamente. Fu veramente una cosa molto drammatica, molto teatrale. Ecco, il caso SME e il caso Mondadori sono un pochino i due casi prototipici, no, dello scontro giudiziario contro, certo, Berlusconi come corruttore, e in entrambi i casi Ringer De Benedetti non ha vinto affatto, questo è il punto. Allora, da questo punto di vista è sicuramente un mondo che si chiude, perché questo mondo ha tenacemente visto la certezza di essere più bravi industrialmente e finanziariamente, e poi il fatto di essere, così dire, l'espressione di un'elite culturalmente e politicamente più vocata, per così dire, a condurre insieme finanza e politica. E però questi lunghi decenni di vita italiana alla fine hanno messo alle corde questo disegno. Ecco, lei ha proprio individuato il problema. Volevo, prima di congedarla, chiedere alla signora Aspesi una cosa che non riguarda, ripeto, direttamente il giudizio sulla persona del suo editore, sarebbe inelegante. Diciamo, c'è un mondo che si autocomprende come un mondo diverso da quello oggi prevalente, no? Tra le masse, il mondo della televisione, il mondo di Berlusconi, il mondo di una certa imprenditoria e di un certo modo di fare politica al quale viene data l'etichetta di populista. È il mondo che viene, De Benedetti è torinese, piemontese, viene dal mondo dell'azionismo torinese, un mondo un po', come si dice, anti-italiano, no? È il titolo della rubrica di Giorgio Bocca sull'Espresso, l'anti-italiano. Questo mondo ha perso il principe Carlo Caracciolo poco fa, perché è scomparso, perché è morto, e adesso insomma c'è una specie di mezzo ritiro dietro un sipario di Carlo De Benedetti. Lei non è preoccupata di una... Ma io sono preoccupata in generale, questa è una parte della preoccupazione. Ma diciamo che sono preoccupata moltissimo per lo stato di questo paese, tutto rientra in uno stato, diciamo, secondo me, non so se è l'età che mi fa vedere la situazione in modo così negativo, ma mi pare che tutto sta andando un po' a rotoli. Probabilmente lei è più ottimista, io non so, mi sembra tutto molto brutto. Ho capito. Comunque consiglio di andare a vedere il film Frost Nixon, sì? Che racconta come questo presidente Nixon, ormai da anni dimissionato, davanti a una, fu una grande trasmissione televisiva. Sì, un giornalista, David Frost, lo intervistò. Alla televisione, sì, disse cose che, per esempio, Bush o chiunque altro non sarà mai in grado di dire. Chi lo sa, il futuro potrebbe riservarci delle sorprese. Ho tradito il paese, ho tradito il nostro sistema di governo, mi pento, sì, ho sì, corrotto. Sì, ho tradito, no, il popolo americano. Beh, naturalmente per dire quelle cose bisogna averle fatte, adesso non so se appunto, Bush le ha fatte. Sì, ma la storia giudicherà. La ringrazio. Forse Bush le ha fatte. La ringrazio molto. Arrivederci, signora, grazie. Arrivederci. Panza, ma questa cultura azionista e in generale le classi dirigenti che Cossiga definiva la nota lobby, Insomma, i pezzi da 90 che si radunano intorno al gruppo editoriale L'Espresso Repubblica, il cosiddetto giornale partito, irresponsabile, che non partecipa mai alle elezioni ma che influenza la cosa pubblica, Caracciolo non c'è più. De Benedetti c'è e non c'è, come la mettiamo? Beh, la mettiamo male, perché c'è un convitato di pietra che finora abbiamo nominato solo in parte, l'ha fatto in parte Oscar Giannino, se ne intende più di me di questo aspetto, che è la grande crisi che sta arrivata e che rischia di spazzare via tante realtà imprenditoriali, quindi anche politiche, che prima esistevano. Quindi da una parte la nostra lobby, io non l'ho mai chiamata in questo modo, perché sia pure a livelli minimi, da giornalista ormai anziano, ne facevano fatto parte fino a ottobre. E la nostra lobby perde certamente un personaggio che è quello che ha interpretato meglio anche il suo spirito positivo di attacco, di difesa quando era necessario, di influenza dell'opinione pubblica, perché l'atteggiamento che avrà Rodolfo De Benedetti adesso è un personaggio che dobbiamo ancora conoscere bene, ma non è certamente quello del padre. Il padre, mi pare abbia usato questa parola, riteneva che l'informazione fosse soprattutto la missione della sua vita. Non è così per Rodolfo, ma il problema riguarda anche tante altre persone. Adesso ho sentito tirare in ballo Bush, Nixon, la Natalia, io ho grande amore per Natalia, mi sembra che siamo fuori dal mondo e soprattutto dalla realtà italiana. Qui c'è una situazione di crisi spaventosa che sta arrivando e che cambierà molte cose, visto che abbiamo citato Silvio Berlusconi. Certo, Silvio Berlusconi oggi è al governo per la terza volta, ma ha dei problemi anche lui giganteschi, non soltanto politici, ma pensiamo solo all'insidia che per Mediaset rappresenta una realtà sempre più grande come quella di Sky. Cioè stanno cambiando molte cose in questo paese, e penso che nella decisione di De Benedetti, come dire, autonoma, un po' obbligata dal contrasto con Rodolfo, teniamo presente, faccio una premessa, che è una voce, un boato, si dice che in questo incontro 24 ore prima della conferenza stampa improvvisa decisa dall'ingegnere, nello scazzo familiare Rodolfo abbia addirittura detto: va bene, allora mi dimetto io dai miei incarichi operativi in gruppi come la CIRE e tutto il resto. Quindi questo, c'è anche un riflesso familiare, specie nelle famiglie che hanno alle spalle dei conglomerati industriali molto, molto importanti, di quello che sta avvenendo, perché se dobbiamo ragionare appunto con i se non ci fosse stata la crisi economica, se la carta stampata avesse continuato a fare gli utili di prima grazie alla pubblicità e alle vendite, se non ci fossero stati i cali drammatici degli introiti pubblicitari e i lettori che scappano, teniamo presente che Repubblica, un dato che qui non abbiamo ancora ricordato, tra i quotidiani italiani è quello che perde più copie, e quello è il suo distacco dal Corriere. Cito dati della Federazione Italiana degli Editori che hanno pubblicato i giornali, a cominciare dall'Espresso, che lo fa tutti i mesi, e il suo distacco dall'Espresso, parliamo della testata di Repubblica, è ormai superiore alle 100.000 copie. Se non ci fosse stato tutto questo, con ogni probabilità non avremmo avuto né la conferenza stampa di lunedì, né tutti gli articoli che abbiamo dovuto scrivere, né questo dibattito se è giusto o meno ritirarsi a 75 anni. Noi siamo di fronte a una specie di grande mostro che nessuno aveva previsto, nemmeno Tremonti, che sostiene di averlo previsto, e che rischia di, non dico di inghiottirci tutti, perché non sono così catastrofico, ma rischia comunque di cambiare, io spero in meglio, dopo un periodo terribile, molte cose in Italia e nel capitalismo italiano. Giannino, lei è d'accordo su questa diagnosi? Cioè in realtà è la mossa di un uomo sconfitto e che attende con prudenza, sono i sacchetti di sabbia messi di fronte al proprio nido, alla propria tana da parte di De Benedetti, questo mezzo ritiro a vita privata, un terribile 2009 di crisi che metterà in discussione anche la trincea editoriale dietro la quale si era inserrato, è giusto? Ma aggiungo un indiscreto, di famiglia proprio. Io rimasi molto colpito nel giugno del 2007, quindi prima ancora che sui mercati si vedessero i primi segni della crisi solo finanziaria americana, parlando molto a lungo in via Cefalcino con Carlo De Benedetti, e Carlo De Benedetti mi disse: guarda, sta arrivando una roba terrificante. Io sempre più mi convinco che da quest'estate in poi arriva una tempesta, per cui io stesso inizio a pensare che bisogna essere pronti mentalmente a disinvestire, a tenere tutto liquido, a vendere tutto, eccetera, eccetera. Cosa che mi confermò a luglio, agosto, lo vidi molto, parecchie volte, e lo disse. L'indiscreto che aggiungo è che, essendo stato privatamente, come consigli per come investire il proprio patrimonio personale, Carlo De Benedetti, sin dall'inizio, convinto che questa non era una crisetta, ma era una cosa epocale, di quella che si vede una volta nella vita, il figlio, Rodolfo, ha iniziato a dire: papà, siccome tu ce lo insegni e ce lo stai dicendo da prima che si vedesse ancora che è così, bisogna farlo anche operativamente nella nostra società, perché altrimenti che cosa vale questo ammonimento? Vale per il patrimonio personale, ma non vale per le attività economiche che abbiamo. Lei, Giannino, ha sentito, ci sta dicendo che ha sentito questa conversazione? Io le sto dicendo che ho più volte chiesto lumi personalmente, avendo risposte che qui per riservatezza non riporto, ma insomma di un discorso che in famiglia era un discorso animato, perché una famiglia di finanziere, di imprenditori, era una famiglia insomma di quelle dove si va avanti a pane e decisione tutti i giorni e tutte le ore, perché Carlo De Benedetti non era affatto un uomo superato dalle tecnologie, chi lo andava a incontrare, ma anche adesso a Via Cevassino, lo trova con due enormi computer a fianco che gli danno ogni 5 minuti, mentre uno sta parlando con lui, arrivano dei segnali bling bling, arrivano delle segnalazioni automatiche di titoli in tutto il mondo che stanno scendendo sotto una certa soglia, per cui bisogna venderli o comprarli. Perché uno insegue i quattrini, ma poi i quattrini ti inseguono, entrano nella tua vita, bling bling, stanno sempre lì a dire. Carlo si è sempre detto che in realtà aveva un difetto, restava più finanziere che industriale, perché le grandi storie industriali poi alla fine gli sono andate più male che bene, mentre da finanziere ha avuto un talento terrificante anche nel pelare i risparmiatori tante volte, a dire la verità. Però ecco, questo dibattito è stato un sconfitto ma non povero, mi pare la sua diagnosi. Sconfitto ma non povero. Dunque, sicuro. Questo adesso diamo qualche informazione sulle strade e poi la butto in politica per il gran finale. Quanto è carino quel barrito, quel barrito dell'elefante. Dunque, 800 24 00 24, anche per le ultime telefonate, sul caso di Carlo De Benedetti che tira via un piede, diciamo, dal proscenio che ha battuto da primo attore per circa 50 anni, per mezzo secolo. Dunque, buttiamola in politica, dicevo. Sì, perché nel novembre del 2005 Giampaolo Panza è al telefono e se lo ricorderà, nel corso di un convegno, forse c'era anche lui, Carlo De Benedetti disse: sì, Prodi deve amministrare il condominio Italia dopo le elezioni. Novembre 2005, eravamo alla vigilia delle elezioni che poi diedero per un effimero lasso di tempo, per un paio d'anni, il potere a Romano Prodi, prima del ritorno di Berlusconi. De Benedetti disse: sì, Prodi amministrerà il condominio, ma bisogna fare questo partito democratico che è il sogno di tutti noi, bisogna affidarlo a Walter Veltroni, a Francesco Rutelli, insomma a quelli che erano considerati giovani nella classe dirigente della sinistra e del centro-sinistra, e se fate questo, se vi comportate così, io, Carlo De Benedetti, sarò il primo a prendere la tessera del Partito Democratico, prenderò anzi la tessera numero uno. Era una battuta, ha detto De Benedetti adesso nella conferenza stampa. De Benedetti sostiene di essere sempre stato contrario a qualunque discesa in campo politica di un imprenditore, di un finanziere, e tuttavia quella battuta fu pronunciata e naturalmente eccitò la fantasia di tutti noi commentatori. La tessera numero uno del Partito Democratico. Oggi sul Riformista Stefano Cappellini traccia le traiettorie parallele di Walter e dell'editore De Benedetti. Lascia anche perché tra le tante cose svanite c'è il Partito Democratico. Può essere, Panza? No, non lo so, non ho ancora letto il pezzo di Stefano Cappellini, un giornalista giovane, tra i più bravi, un analista molto acuto, ma non lo so. Dunque, intanto la tessera l'ho presa anche perché il Partito Democratico non c'è, così come la vedo io. Io non mi sarei mai iscritto al PD, come non mi sono mai iscritto in tanti anni di vita a nessun partito, ma non si può prendere la tessera di un partito che non esiste. Un partito, quel poco che era stato costruito, si sta già autodistruggendo. Ripeto, io penso che non sia la regola dei 75 anni. Tra parentesi voglio dire che questo giovane, immagino fosse giovane, vostro interlocutore di Reggio Emilia, a proposito dice: ma se i vecchi non se ne vanno, i giovani come fanno a entrare in età utile nel posto di lavoro? È un discorso che sa molto di alibi. Dipende da che cosa è in grado di fare un giovane e da che cosa è in grado ancora di fare un anziano. Naturalmente difendo la mia classe d'età, così come mi sembra anche un po' ridicola, del resto Giannino l'ha smentita subito e me ne ero reso conto anch'io l'ultima volta che ho incontrato De Benedetti nel suo ufficio davanti a Largo Fochetti. Non sanno usare le tecnologie. Io non so usare le tecnologie, adopero il computer. Ma in che senso? Non ho capito, perché il citofono lo sa spingere davanti all'ufficio. No, ma lui intendeva, che, non so, forse non sa arrivare su Google o su Wikipedia, ma secondo me sono solo delle perdite del tempo fare queste cose. Ah, poi anche per la... Proprio abbiamo un atteggiamento antigiovanilistico spinto. Cioè, ma è giusto. Ma è una perdita di tempo andare su Google, è una frase quasi ereticale nel mondo. Ma certo, io non ci sono mai andato, non ho soppresso il mio indirizzo email perché ricevevo troppa pubblicità. Se devo spedire i miei articoli... Voglio sempre che uno prenda del Viagra, del Cialis, per forza. Non si capisce perché sono così affezionati quelli dello spam lì, del trash, come si chiama... Ma perché ritengono... Vogliono sempre che uno abbia un pene enorme, ma perché? Ma ritengono che evidentemente Giuliano Ferrara o Panza siano delle persone importanti, vogliono vendergli questo e quest'altro. Me ne frega, io sono un anticonsumista pazzesco, ho imparato da piccolo che devo avere solo quello che mi serve, quello che non mi serve se lo comprino gli altri. No, ma per tornare a questo discorso, io adesso non sono terrorizzato dalla crisi che sta arrivando, anche se sono preoccupato, perché ho un carattere ottimista e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno invece che quello mezzo vuoto, ma certamente anche per la politica questa storia cambierà tutto. Ma Silvio Berlusconi non è che cadrà per un voto parlamentare contrario, cadrà se la crisi economica e soprattutto la depressione con le file dei disoccupati, queste cose lo costringerà a trovare una via d'uscita che ha come preliminare la fine del suo governo, così come le attuali opposizioni in parte sono già state spazzate via dal voto degli italiani, ma quelle altre dovranno trovare un'intesa per fare un governo nuovo, non so come chiamarlo, la grande coalizione, la salvezza nazionale, quindi tutti i nostri parametri che ci consentono di guardare in modo geometrico alla politica italiana devono cambiare. Quindi, caro Ferrara, anche tu sei chiamato a cambiarli, io prima ancora di te, dico tu che fai un giornale così intelligente, interessante e pronto grazie. A recepire tutte le novità non soltanto del mondo politico italiano ma di quello internazionale, anche tu dovrai cambiare. Ma siamo ancora a parlare della testa numero uno del Partito Democratico, ma è roba di preistoria rispetto a quello che è avvenuto. Cioè, io ho visto De Benedetti alla fine di novembre, sono stato a parlare con lui un'ora e mezza, l'ho visto molto preoccupato per la situazione, chiamiamola globale, ecco, mondiale. E soprattutto l'ho visto anche scontento di se stesso, perché sa benissimo che anche nel suo settore, che è la sua missione, che è quello editoriale, ma qui stiamo parlando di carta stampata, perché anche se lì tutto avesse sta avuto un'emittente certo. televisiva non si sarebbe chi certo... Chi può, lo chiedo a Giannino, chi può sostituire una figura di quel tipo? Cioè, voglio dire, certo il figlio può sostituirlo nei ruoli operativi, un giorno qualcuno potrà sostituirlo come editore, i giornali continueranno a essere pubblicati, nessuno di noi è mai insostituibile, ma quel particolare imprenditore che fonda l'organizzazione, il Club Libertà e Giustizia, il cosiddetto Club dei Miliardari Progressisti, quel particolare tipo di editore che fa fronte al... virgolette populismo di Berlusconi, quel particolare tipo di editore che organizza un pezzo della classe dirigente come l'ha organizzata De Benedetti, nel bene e nel male, facendo errori e facendo cose di un certo interesse e spessore in Italia e in Europa. Bene, quel tipo di ruolo lì chi lo può ricoprire? Bene, io penso che un banchiere, un profumo, un... Ma io penso che una delle chiavi della fine dei 50 anni il capitolo insomma del caro De Benedetti protagonista, fine che lui stesso si autocertifica, è la fine di una chiave che lo univa a suo maestro, l'unico che ha richiamato, Bruno Visentini, e veramente gli è stato maestro nella finanza, nell'impresa e anche in politica. Sì. Infatti caro De Benedetti ha detto: io poi alla fine ero repubblicano, mi sento repubblicano, sì, nel bipolarismo, ma sono andato a sinistra però. Allora, Bruno Visentini era teorico del fatto che nell'impresa come nella politica nel controllo di un'impresa come nell'indirizzo della politica, ci voleva quello che lui chiamava il potere virile, quello maschio. Dice, lui era contrarissimo all'ideologia, alle public company, ma che? Cioè, l'imprenditore è uno che deve comandare, nominare i manager, gli devono obbedire, deve essere lui che si... In politica Carlo De Benedetti ha disperatamente, dal mio punto di vista, tentato di affermare, sia pur per interposta persona, i leader che lui designava e scavallava, per così dire, di perseguire questo stesso modello. Questo modello nella sinistra italiana del dopo muro, a sinistra non ha funzionato. Ha funzionato di più dall'altra parte con Berlusconi, sì, con tutti i limiti che dice Panza, però insomma lì funziona di più. Ecco, la mia opinione è che quindi non si sostituisce un'idea di potere virile nell'indirizzo di poteri editoriali, finanziari, imprenditoriali e politici visto da sinistra, perché si va, e questo è stato l'andamento di questi ultimi vent'anni, verso forme più, direbbe Zygmunt Bauman, verso più liquide, cioè i banchieri ci sono e non ci sono, perché poi le responsabilità non le esercitano, dicono e non dicono, esercitano potere. Ma insomma, Carlo De Benedetti aveva la legittima pretesa di dire quello che io faccio con le imprese, con la finanza e con la politica è in realtà la stessa cosa, ed è una cosa chiara. Ecco, secondo me nella società un po' complessa e molto divisa a sinistra italiana, sì, quest'idea di unificare in un unico scettro la direttrice non ha funzionato, e temo che chi voglia candidarsi a ripetere lo stesso ruolo fallirebbe comunque. Quindi non ci sarà, secondo Oscar Giannino, un nuovo De Benedetti dopo il De Benedetti che ha parzialmente, lo ricordiamo, perché poi è sempre lì e nomina i direttori dei grandi giornali che fanno parte del suo gruppo, parzialmente abbandonato il proscenio. Bene, vi ringrazio tutti, ringrazio anche gli ascoltatori che sono stati in linea, alcuni di loro non abbiamo potuti ascoltarli oggi, li ascolteremo domani in altre occasioni, ringrazio Panza, ringrazio Giannino, ringrazio Natalia Aspesi e vi do appuntamento a domani, dopo aver ricordato i nostri collaboratori Franca Fossati, Gloria Guerrera, in redazione, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Matè. Va in onda Gianluca Nicoletti. A domani.